Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento, nuova settimana, ci ritroviamo con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Un saluto a Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto agli ascoltatori. Allora, parliamo adesso di un argomento che tocca, interessa molto gli automobilisti, perché io ormai ho il terrore delle zone a traffico limitato. Quando vado in una città che non conosco, cerco di stare attentissimo ai cartelli stradali, ma poi se non conosci il posto devi anche magari cercare la via di dove devi andare, via dicendo, e ti può sfuggire il famoso cartello della ZTL, che è quella che poi ti dice: attenzione, qui non puoi entrare se non sei residente o se non hai determinate credenziali per accedere, e ovviamente se passi poi ti becchi delle sonore e costosissime multe. Parliamo proprio di questa vicenda che ci porta dove? A Mestre? Sì, la vicenda ci porta a Mestre, Francesco, e dove da tempo ci sono delle odiatissime ZTL che devo dire però che da un mesetto a questa parte sono state sospese dall'amministrazione comunale. Adesso vedremo un po' come andrà la situazione. Di certo comunque hanno fatto molte vittime da quando sono state un po' istituite a poco, e servono, perché giustamente le ZTL, come le zone pedonalizzate, sono comunque un valore aggiunto per le città, però molto spesso sono indicate male. Poi ci sono altre situazioni tali per cui molto spesso l'automobilista ne rimane incastrato. Ne è rimasta incastrata, è rimasta fregata, diciamo tra virgolette, dalle ZTL, in particolare dalle telecamere di una zona centrale di Mestre, una commerciante residente a Mestre, appunto, che ha un'attività in centro e che a gennaio 2016 è passata più volte nelle zone a traffico limitato, scordandosi che però il suo permesso ZTL era scaduto esattamente a fine dicembre dell'anno prima. A questo punto, a febbraio, gli è arrivata la prima multa per questo passaggio in ZTL, e a poco insomma si è accorta, che andando appunto a informarsi dei vigili, che la multa non era una ma erano ben 14, perché era passata appunto 14 volte in ZTL, convinta che appunto il suo pass fosse ancora valido. A questo punto la donna, che appunto avrebbe dovuto pagare 1300 euro, si è rivolta al nostro ufficio legale e noi siamo intervenuti tramite il giudice di pace. E devono dire che va bene, con i tempi che ha la nostra giustizia, quindi diciamo è passato più di un anno, però abbiamo ottenuto esattamente l'altra settimana una bella vittoria, perché il giudice di pace ha riconosciuto che alla donna un dimezzamento del numero di multe, perché è andato a eliminare le cosiddette multe seriali, cioè quelle multe identiche, cioè della stessa identica infrazione avvenuta però nell'arco di poco tempo. In questo caso l'arco di poco tempo è stato considerato il giorno, nel senso che la commerciante aveva preso anche più multe in un solo giorno, sempre per le stesse infrazioni. In questo caso il giudice di pace ne ha contata solo una. È un'importante interpretazione, riteniamo molto, molto utile, molto interessante, per nulla scontata, perché per le ZTL solitamente questo tipo di interpretazione, che si rifà comunque alla sentenza della Corte Costituzionale, non viene ammessa. Invece in questo caso devo dire che c'è stata una sentenza illuminata, quindi la nostra socia dovrà pagare, invece che 1300 euro, solamente, diciamo solamente tra virgolette, 560 euro. È interessante sicuramente, forse a giustificazione c'è il fatto che lei appunto utilizzava un permesso e quindi aveva accesso normalmente alla zona a traffico limitato, e scaduto l'abbonamento non si era ricordata, come dicevi, di rinnovarlo, no? Sicuramente il giudice di pace ha tenuto conto di questo aspetto molto importante. Ovvio, noi non andremo neanche a consigliare un ricorso a chi passa in ZTL senza avere il permesso. In questo caso la donna aveva un permesso annuale, quindi l'aveva fatto nel 2014, scadeva a dicembre 2015, però qua insomma diciamo che puntiamo i riflettori su uno dei soliti problemi, cioè il fatto che i comuni, che mandano tante lettere a casa ai propri cittadini, potrebbero anche tranquillamente inviare un avviso a tutti gli automobilisti che hanno un permesso ZTL e che sta per scadere. Quindi sicuramente questo è un accorgimento che noi tra l'altro invochiamo un po' da tempo, non tanto per questi casi specifici, insomma, che sono importanti, però per altri casi che riguardano soprattutto le persone disabili, ne abbiamo seguito veramente tanti, ne abbiamo raccontate anche durante la vostra trasmissione, perché abbiamo persone disabili che tra l'altro non hanno nessuna possibilità di miglioramento, che hanno dei pass addirittura di 5 anni e chiaramente tanti non si ricordano di rinnovarlo alla scadenza del quinto anno, e insomma noi chiediamo ovviamente che le amministrazioni stiano attente e insomma prendano la briga, quantomeno per questi pass che vengono rinnovati ogni 5 anni, di avvertire il diretto interessato quando il pass sta per scadere. Altra cosa, Francesco, sempre che rileva dalla vicenda che è capitata a questa commerciante, non è possibile che una persona venga messa di fronte alla realtà dopo aver già preso 14 multe in questo caso, nel senso che la donna, la nostra socia, è passata 14 volte per tutto il mese di gennaio, però solo a febbraio gli è arrivata la prima multa che l'ha illuminata e le ha fatto capire di essere in ritardo con il rinnovo del pass. Intanto però aveva già preso 14 multe, sono 1300 euro, sono tanti soldi. Sono assolutamente d'accordo con te, quindi bisognerebbe che nell'epoca della digitalizzazione di internet, social network e quant'altro ci sia la possibilità di avvisare qualcuno in un tempo ovviamente molto più veloce che non quello della stampa, del verbale, della pratica che fa tutta una serie di giri e poi ti arriva a casa con un mese dopo e quindi poi paghi le conseguenze anche di questi ritardi, no? Certo, le paghi in maniera pesante, perché succede sempre ovviamente quando la multa ti arriva, ti rendi conto dell'errore un mese dopo, vai dai vigili e ti rendi conto che quell'infrazione l'hai commessa più volte e ormai i giochi sono fatti. Sì, io ricordo di altre vicende dove persone sono state costrette a pagare veramente tantissimi soldi, quindi chissà che questa cosa che ci racconti possa fare luce e far sì che non debbano più accadere cose di questo genere. Però se capitano c'è sempre l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre che può in qualche modo aiutarvi a districare un po' la matassa. Grazie a Gianluca Codognato, ricordo associazionedifesaconsumatori.it, ci risentiamo tra qualche giorno. Grazie a te, Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.